Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Facciamo un salto nel passato, proviamo a immaginarci nei primi giorni dell'agosto del 91, così vicini e così lontani, un periodo in cui il flusso degli arrivi di albanesi in Italia è ricominciato a un ritmo piuttosto sostenuto. Il 7 agosto a San Foca e a Otranto ne erano arrivati più di 500, stipati su due grossi pescherecci. Centinaia di persone sono pronte a partire per l'Italia dall'area portuale di Durazzo. Una folla umana, si dice, una folla in cerca di imbarcazioni su cui tentare l'attraversamento dell'Adriatico. Il comunismo sta finendo in Albania, alla fine della dittatura, e quindi tutti che vedono la TV italiana guardano all'Italia come a un approdo di speranza e di riscatto. Bene, in quella folla c'è anche un ragazzino a 16 anni e assieme a un suo amico che si chiama Alion. Il ragazzo in questione si chiama Kledi, è bravo, studia danza all'Accademia di Tirana, vuole fare il ballerino professionista. Il 7 agosto 1991 Kledi Kadiu sale su un treno per Durazzo. Quel giorno gli rimarrà impresso per sempre, così come ad altre 20.000 persone. La mente era invasa da mille interrogativi. Erano diversi giorni che non si parlava d'altro, nei bar, per le strade, negli uffici. Tutti sapevano che il porto si sarebbe aperto e ognuno avrebbe avuto la sua occasione. Ognuno avrebbe potuto soddisfare la sua voglia di rivincita nei confronti della vita. Ricordo quel giorno come fosse ieri, l'inizio di un'esperienza drammatica e al tempo stesso indimenticabile. L'inizio del mio viaggio di sola andata. C'è un altro uomo che si porta nel cuore la mattina di quel giorno. È all'epoca ha 39 anni, è un giovane comandante. Si chiama Halim Milaki e in quel momento è a Durazzo. Da un vecchio mercantile che si chiama Vlora sta scaricando 10.000 tonnellate di zucchero proveniente da Cuba, dalla amica Cuba. Quella mattina cambia tutto, perché durante le operazioni di scarico una folla enorme, migliaia di persone assale la nave, uomini, donne, bambini, anziani, tutti salgono sulla Vlora con un solo obiettivo: fuggire dall'Albania. E Kledi Kadiu è insieme a loro, ci mette 5 ore a spinte e a gomitate per riuscire a salire a bordo. E il comandante sa che la nave ha il motore in avaria, almeno quello centrale, però non riesce a convincere quella folla a scendere, anzi si vede costretto a partire, è quasi minacciato. Non stiamo parlando di un bieco scafista, stiamo parlando di una persona costretta a prendere quella decisione, quella rotta verso l'Italia. Siamo entrati e in 10 minuti eravamo in 10.000. Sono salito su i vagone, sai, di carbone, e guardavamo, sai, la gente che saliva tutto su quella nave. Mio marito mi chiede, dice: ce la fai a salire con la corda? Sì, io dicevo solo sì, e abbiamo fatto questa scalata con la corda. L'ho fatta. Queste sono le voci di alcuni albanesi che hanno raccontato la loro storia nel film La nave dolce, un documentario italiano del 2012 diretto da Daniele Vicari. Il capitano in quel momento potrebbe abbandonare tutti, abbandonare la nave, invece decide di salpare, naviga per ore e ore verso l'Italia, verso la terra promessa. Kledi Kadiu si fa largo nella folla insieme al suo amico del cuore. Solo allora si rende conto di quante persone siano stipate lì dentro e della disperazione di chi sta viaggiando insieme a lui. Lo spettacolo che si presenta davanti ai miei occhi è orribile. Quasi non riesco a respirare dal cattivo odore. Uomini e donne sono stretti come bestie. Il mio sguardo viene catturato da una donna appoggiata al corrimano con in braccio il suo bambino in lacrime. Accanto a lei un uomo sta facendo i bisogni, lì davanti a tutti, e non sembra essere minimamente in imbarazzo. Sento un improvviso senso di vuoto dentro di me. Sto guardando un uomo che non ha nulla. La sua disperazione non lascia spazio alla dignità. La signora mi regala un timidissimo sorriso, ma nei suoi occhi leggo la disperazione, l'incertezza, la paura. Ma Clary, cosa ricorda a tanti anni di distanza di quel viaggio? Sono passati 25 anni, però ovviamente è un viaggio, è un'avventura più che altra, che ha segnato la mia vita per sempre in positivo, perché per me questa esperienza è stata unica, irripetibile. Il ricordo, per tornare al ricordo, il ricordo era pensiero sulla mia famiglia, ero sempre in pensiero per loro, non li avevo avvisati, non potevamo avvisarli visto che non c'era la tecnologia che c'è oggi, ero sempre stato vicino alla mia famiglia, era la primissima volta che io andavo e per di più in questo modo un po' insolito. Mentre Clady vive la sua avventura personale, quella che lo cambierà per sempre in quel luogo mitico chiamato Italia, proseguono da giorni le riunioni, perché i ministri dell'interno, che è Vincenzo Scotti, quello degli esteri, De Michelis, Rognoni, ministro della difesa, e Margherita Boniver, ministro dell'immigrazione, che è una nuova parte del potere introdotta nei nuovi governi, e poi c'è quello della protezione civile, insomma tutti ribadiscono che la linea del governo è quella di respingimenti in mare, eventuale rimpatrio immediato per gli albanesi in arrivo. Nessuno sa che 20.000 persone sono già ammassate su una nave, pronte a riversarsi sulla costa pugliese. Il falco e il gabbiano. Siamo nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1991, una notte di mare calmo. L'Italia dorme, mentre la città di Brindisi nega l'ingresso in porto a Ali Milaki, che è il comandante della Vlora, una nave con almeno 10.000 persone, non si saprà mai quanti sono, a bordo. Migliaia di persone con bambini, donne, che invece di tornare indietro mette la prora su Bari. Dopo altre 7 ore di lenta navigazione arriva a Bari con la luce del sole, la nave viene avvistata. Bari quel giorno non ha né un prefetto né un questore, sono andati entrambi in ferie, così le autorità cittadine vengono avvisate quando la nave è già in prossimità del porto. E fa molto caldo, la gente comincia a stare male, ammassata sui ponti, nelle stive, manca l'acqua, manca l'aria. E la capitaneria mostra qualche titubanza. Il comandante, circondato da gente armata che non sarebbe mai tornata indietro, dichiara di avere a bordo donne e bambini senza acqua e cibo. Così, forzando il blocco, si avvicina avanti piano al bacino portuale. La moglie del sindaco Enrico Dalfino ricorda bene la reazione di suo marito all'arrivo della nave. Ecco come ne parla. A Bari erano tutti in vacanza. Il prefetto, il comandante della polizia municipale, persino il vescovo era fuori. Quando mio marito uscì di casa, però, non immaginava quello a cui stava andando incontro. Al telefono mi disse che c'era una marea di disperati, disidratati, e aveva una voce così commossa che non riusciva a terminare le frasi. Tornò a casa alle 3 del mattino dopo. «Sono persone», ripeteva. «Non possono essere rispedite indietro. Noi siamo la loro ultima speranza». Da Roma non capiscono nulla del problema. E arriva l'ordine di tenere gli albanesi al porto e di farli ripartire in fretta. Chi è sul posto capisce che è una cosa impossibile. Il timore dello sbarco senza controllo diventa realtà. Sentiamo un giornalista dell'epoca che di fronte a quel fiume umano cerca di raccontare cosa sta accadendo. Situazione drammatica, si è detto, il mercantile Vlora ha fatto rotta verso Bari, ad un certo punto era rimasto al largo, le autorità non davano il permesso di entrare in porto. Intanto vedete la situazione qui sulle banchine del porto, tutti spingono, non è ancora ben definita, in prefettura si sta cercando di mettere a punto un piano. Indubbiamente questi giovani, che hanno soprattutto sete, chiedono acqua, il refrigerio al caldo, molti sono i feriti, fra questi ci sono anche 200-300 militari che hanno abbandonato l'Albania. Che cosa accadrà, si è detto, di questi giovani? Vedete, c'è anche fra i giovani, ci sono anche alcune ragazze, qualche bambino. Che cosa accadrà di questi? Si sta profilando una tragedia. Alcuni si buttano in mare, arrivano a terra, vanno lungo i binari della ferrovia, altri si gettano, si riversano sul molo, chiedono assistenza, ci sono feriti, c'è bisogno d'acqua. Il sindaco di allora, Enrico Dalfino, fa distribuire l'acqua. Ci si comincia a porre il problema di come e dove sfamare e far dormire quelle migliaia di persone, e ormai si parla di 20.000 anime. Le autorità decidono di trasferire gli albanesi nello stadio della Vittoria fino al rimpatrio, il vecchio stadio prima che facessero quell'abominio del nuovo stadio di Bari. Gli autobus li caricano, li portano allo stadio. Nel tardo pomeriggio i migranti capiscono di essere in trappola e cominciano a cercare di scappare. C'è una prima scintilla di rivolta. Bene, la risposta delle autorità italiane è la decisione di chiudere i cancelli di ferro, e quello che Cledi vede lo racconta nel suo libro Meglio di una favola, La mia vita, edito da Mondadori. Saliamo i gradini della curva fino ad arrivare alla fila 77. Uomini, donne, bambini, come mosche. Per una vita siamo stati vittime del governo comunista e ora siamo ammassati come bestie in uno stadio, gentilmente trasformato per l'occasione in un lager a 5 stelle. Mentre addento un tozzo di pane, tra una riflessione e l'altra, il sole comincia a calare. Una nuova notte da affrontare alle porte. Le persone sono straziate, distrutte, svuotate. Sembrano un ammasso di burattini ai quali hanno tagliato i fili. E qui alcuni albanesi rispondono alle azioni della polizia e si impossessano dello stadio. Ci sono dei violenti, ci sono dei delinquenti che tengono in ostaggio gli altri, bambini compresi. E qui la situazione si sfaccetta in migliaia di situazioni. Da un lato albanesi che chiedono aiuto a una città come Bari che si mobilita in loro favore, acqua, coperte. Dall'altro una frangia di delinquenti all'interno di queste 20.000 persone che invece va a rapinare della gente nelle case. Quindi vedete, lo stesso problema visto da due angolazioni diverse. Ma intanto in molti tentano la fuga, lo ricorda anche Saverio D'Alonso, che è il comandante, era allora il comandante della polizia municipale. Avevamo la nostra caserma in via San Francesco all'Arena, a 50 metri dallo stadio della Vittoria. E nelle occasioni in cui gli albanesi riuscivano a forzare il blocco e a scappare, alcuni di questi, scavalcando le pareti, arrivavano sino alla nostra caserma. Quindi noi, una volta rintracciati, prima di riconsegnarli, come era nostro obbligo, alle forze di polizia statali, avevamo cura di rifacillarli, di dargli da bere, perché erano tutti disidratati, e di dargli le cure del caso. C'erano alcuni albanesi che si facevano portavoce degli altri e pretendevano che gli fosse data loro assicurazione che dovessero rimanere in Italia. E quindi non facevano distribuire il cibo ai loro connazionali perché volevano questa assicurazione. La situazione degenera sia dentro lo stadio, dove la polizia deve gettare acqua e pasti con gli elicotteri, che vengono peraltro requisiti da bande di delinquenti all'interno dello stadio, cioè i capi della rivolta, che in realtà sono la parte peggiore di tutti quegli albanesi che erano arrivati. E poi c'è tutto il molo del porto, poi c'è la gente che si butta in mare. E bene, arriva il 13 agosto, bel bello, il presidente Cossiga chiede le dimissioni del sindaco, lo definisce un cretino, un irresponsabile. Dalfino non ci sta, difende il suo operato, perché lì c'era lui a Bari, non stava a Roma Dalfino, e la polemica tocca tutti, intanto le istituzioni di Roma, e poi inizia proprio un dibattito su cosa si debba fare in quei casi. Intanto anche il nostro protagonista, Cledi Cadio, in quel caos riesce a fuggire, scappa dallo stadio, crede di assaporare finalmente la libertà. Finiscono però i ragazzi per essere traditi da alcuni italiani che fingono di aiutarli e poi chiamano le forze dell'ordine. Quindi il viaggio per loro è finito, vengono rimpatriati assieme a migliaia di connazionali. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando un episodio che cambiò la storia del nostro paese e anche quella del nostro vicino di casa, cioè dell'Albania, l'assedio dello stadio di Bari. In realtà stiamo raccontando la storia di un ragazzo che si chiama Kledi Kadiu, costretto a ripartire in quel momento, ma in attesa di quanto il destino stava per riservargli, grazie soprattutto alla sua applicazione, al suo talento e al suo lavoro. Insomma, Kledi torna a Tirana, riabbraccia i suoi genitori, però è chiaro che qualcosa per lui ormai è cambiato. È un po' difficile spiegarlo, perché solo chi vive queste sensazioni si rende conto e poi automaticamente diventa un vissuto che poi fortifica il tuo carattere, il tuo modo di essere, cioè fa parte del vissuto, dell'esperienza, del bagaglio di vita di una persona, sicuramente lasciano il segno, però io dico sempre che hanno fortificato, hanno arricchito il mio modo di vivere. E perché no? Hanno anche fatto sì che io apprezzi di più le cose che sono venute dopo. Siamo nel 1991, lui sta inseguendo il suo sogno, la sua aspirazione, quella di diventare ballerino professionista. Tutto era iniziato quando lui aveva solo 10 anni, nel 1984, quando il padre lo accompagna a fare le audizioni all'Accademia Nazionale di Danza di Tirana, cioè in pieno regime comunista. 64. Eccoci, vai Kledi, fagli vedere quello che sai fare. Mi alzo e arrivo al centro della sala. Sciolgo le gambe e dopo un profondo respiro inizio. Concludiamo ora con la prova di improvvisazione. Qui valuteremo l'abilità tecnica e l'aspetto creativo dell'interpretazione. Chiudo gli occhi e inizio a farmi trasportare dalle note di questa splendida musica proveniente dal pianoforte. E Kledi è così bravo che viene ammesso. Poi c'è tutta la sua vita, il suo studio, ma anche i suoi viaggi della speranza. Lui torna, come abbiamo detto, e nel 92 si diploma comunque all'Accademia Nazionale di Danza e entra a far parte del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Tirana. Ma che cos'è per Kledi la danza? È la danza per noi, per me, in quegli anni soprattutto, era l'obiettivo della mia vita. Io, una volta ammesso nell'Accademia di Danza di Tirana, sapevi già di cosa era fatto il mio percorso successivo e che cosa avrei fatto nella mia vita da grande. Ovviamente eravamo preparati per diventare ballerini del Teatro dell'Opera di Tirana. L'Accademia è l'unica realtà di Tirana di quegli anni e io sono stato, ecco, un altro fortunato tra mille altri a intraprendere questa lunga e difficile strada di rinunce, di sacrifici, di passione soprattutto. Kledi però non si dimentica che cos'è il mondo non comunista e quindi cerca ancora di scappare. A un certo punto scende da un pullman durante uno dei tour per l'Europa e da un altro colpo d'ala si trasferisce nel Bresciano con l'appoggio di uno zio che si era già stabilito da quelle parti. Fa il lavapiatti, poi viene notato, chiamato a lavorare in Italia come danzatore, però per ottenere il permesso di soggiorno e fare il ballerino in modo legale deve tornare di nuovo in Albania. E intanto a Tirana diventa primo ballerino a ruoli solistici in balletti come Giselle, lo Schiaccianoci, Don Chisciotte, Daphne e Chloe, ma è molto meglio fare il lavapiatti in Italia dal punto di vista remunerativo che fare il primo ballerino in un regime come quello. E finalmente Kledi Kadiu può rientrare in Italia e inseguire il suo sogno, che non è il denaro, è la possibilità di ballare e di realizzare la sua arte in un paese libero. Nel 93 lavora prima a Mantova e poi a Rovereto. E poi ci sono molti incontri nella sua vita che gli fanno cambiare direzione, come se il suo sogno fosse sempre pronto a sfuggirgli di mano. E poi c'è un momento, dopo tanta fatica, che segna il vero colpo d'ala nella carriera di questo ragazzo: l'entrata in televisione, un provino in mezzo a centinaia di aspiranti, e il sì tanto atteso che cambia in un modo definitivo la sua rotta. Nel 96 arriva la prima esperienza televisiva, programmi noti al grande pubblico, Buona Domenica, C'è Posta per Te, e poi naturalmente Amici. Maria De Filippi riconosce il suo talento e lui rimane per 9 anni ballerino professionista e ora da 3 anni docente di danza, e lui è cresciuto con il programma condotto da Maria De Filippi. A me mi ha dato tanto, ovviamente non posso negare il successo del pubblico non soltanto televisivo, ma il pubblico poi abbinato anche quello teatrale, perché da quando ho iniziato questa esperienza c'è stato un boom di successi uno dopo l'altro, e poi è diventato parte della mia vita. Sono cresciuto con questa trasmissione, mi ha dato tanto, ovviamente ho visto passare migliaia di ragazzi, ho lavorato con loro, loro hanno lavorato con me, c'è stato uno scambio di vite, di percorsi, di consigli, di critiche anche. Se devo fare un bilancio, perché sono 15 anni, non sono pochi, è un bilancio ovviamente positivo su tutti i punti di vista. E quindi vedete anche un altro abbattimento di un luogo comune, che non è che tutti quelli che escono dai talent non valgano nulla, anzi ci sono persone che hanno saputo sacrificarsi, il talent per loro è stata solo una grande occasione, una grande vetrina meritatissima, come nel caso di Clady Cadieux. Tra le persone che ci sono nel mondo del piccolo schermo ci sono anche due ballerine che hanno vissuto anni di accademia e poi sono diventate amiche di Clady, e lui ne parla: Anbeta Albanese e Rossella Brescia. Sì, è nato subito un feeling, soprattutto con Rossella. Tu hai accennato prima Buona Domenica, e con Rossella ci siamo proprio incontrati, quel contesto che poi è durato per tanti anni. Abbiamo ballato tantissimo insieme, anche fuori dal contesto televisivo, e con Anbeta ci siamo frequentati anche dopo, insomma, visto che ci lega la nazione, diciamo. Con Anbeta è stata tuttora, insomma, un amore fraterno. Ed ecco cosa dice lei, Rossella Brescia, della sua amicizia con Clady. Ci siamo incontrati a Buona Domenica, abbiamo iniziato a fare i primi passi a due insieme, e poi abbiamo iniziato questa amicizia perché lui è un giocherellone sostanzialmente, a me piace tanto ridere, quindi ci siamo presi subito, e quindi nascevano degli aneddoti particolari in sala prove, ovunque, perché poi si stava lì dalla mattina alla sera per fare le prove, perché facevamo anche amici nel frattempo, e niente, siamo rimasti così sempre molto amici, anche adesso che magari non lavoriamo più insieme, comunque ci sentiamo sempre come se fosse un fratello. Io ho tutte sorelle, quindi è un mio fratello lui. Tra l'altro Clady ha amici, insegnava, quindi non è che è uscito come concorrente, però sapete, il ricordo cambia tante cose, trasfigura anche la realtà. Stiamo parlando di danza, ma possiamo dire che la danza unisce? Tantissimo, perché le unisce non soltanto poi nella performance, ma le unisce anche nel sacrificio, e tu sai che uno fa sacrifici, chiaramente se si fanno in due è anche meglio, non so, incontrarsi la mattina a lezione e scambiarsi dei sorrisi, oppure scambiarsi anche notizie sui dolori, sì a me è venuto un po' di acido lattico qui, un po' lì, ci si fa compagnia anche nei dolori, ed è molto bello perché la danza ha in sé un grandissimo rigore. Quindi se non ci fosse l'amicizia sarebbe forse un po' troppo dura da sopportare, ecco. Clady a questo punto non si ferma più, nel 2004 fonda la sua scuola di danza, Clady Dance, e poi ottiene il premio Gino Tani come artista dell'anno, l'alta onorificenza ambasciatore della nazione da parte del presidente della Repubblica d'Albania, Alfred Moisiu, perché intanto in Albania finalmente è cambiato tutto dal punto di vista politico. L'anno dopo arriva anche la prima esperienza cinematografica con Passo a Due con Laura Chiatti. Ti ho visto in TV? Lo sono, nei massimi. Però per adesso va bene così. Una macchina, dei soldi. e finalmente un permesso di soggiorno. E tu? Io lavoro nell'impresa di mio padre. La danza? Ho smesso. Beh, insomma, poi alla fine ci siamo accontentati tutti e due, no? Già, accontentati. Che brutta parola. E poi c'è un altro film con Claudio Bisi, una fiction su Rai 1. E poi il palco che non viene mai abbandonato. Nella stagione 2007-2009 c'è Giulietta e Romeo con il Balletto di Roma. E poi nel 2009 la sua autobiografia, che in qualche modo è un libro significativo perché regala speranza e ottimismo a chi sta inseguendo il suo sogno e soprattutto è anche un fedele racconto di un periodo storico italiano che è stato dimenticato, quello delle grandi immigrazioni, soprattutto dall'Albania dei primi anni 90. Sentiamo uno stralcio tratto dall'epilogo del libro. Sono passati quasi 18 anni da quella nave. Quanti ne servono a un bambino per diventare un uomo? Quanti ne sono bastati a me per capovolgere totalmente la mia vita? Per realizzare il mio sogno, partire da lontano e arrivare dove non avrei mai neppure sperato. Allora ero uno dei tanti perduto nella folla. Adesso tutta questa gente è qua per me. E ancora non mi sembra vero. Lui ormai è famosissimo, viene ospitato ovunque, anche Fiorello si diverte a coinvolgerlo negli spettacoli. Benvenuti agli amici. Dove vai, Gledi? Alzati, stai in piedi, il pubblico ti ama. Aspetta, Gledi. Gledi, io ti ho sempre invidiato. Sai cosa ti ho sempre invidiato, a parte saper ballare? Vuoi sapere la verità? Te la dico? Te la dico? Gli addominali. C'hai degli addominali. Ma che c'è, Ambeta pure? Ma dai, Ambeta. Ambeta chi c'è, oh. Adesso mi metto in mezzo, eh no, scusa, chi viene qua? Guarda, Cledi, mi fai una cortesia? Eh? Sono più come prima. Di cosa? Addominali. Ma non potrei mai essere, cioè, al mio livello, no, quindi... Nel 2010 Cledi diventa uno dei volti di Rai 5, che è il nuovo canale culturale della Rai, con un programma che si chiama Step, passi di danza, dove per alcune stagioni, peraltro, riesce a vestire anche i panni del narratore. Oggi incontrerò un grande danzatore, un artista con una straordinaria carriera alle spalle e una persona speciale, Vladimir Derebianko. È sempre stato un modello da imitare, l'immagine di un sogno che si realizza sin da quando ero un allievo dell'Accademia di Danza Tirana, in Albania. Beh, è chiaro che la storia di Cledi è una storia emblematica, una storia di riscatto, di rivincita. Di pari passo con il suo successo cresce anche il suo ascendente nei confronti dei ragazzi. Sentiamo per esempio il consiglio che lui dà ai giovani ballerini che oggi hanno grandi ambizioni. I ragazzi devono sapere che la danza trasmette ed insegna valori importanti non solo per ballare, ma anche per crescere in maniera sana e positiva. L'educazione, il rispetto, l'impegno, il sacrificio, forza di volontà, determinazione soprattutto. Per primo sostengo che parte del successo sia dovuto anche alla formazione e allo studio serio che ho ricevuto da ragazzo. Sono gli anni della scuola, quelli più importanti, perché mi hanno dotato di un bagaglio tecnico tale da poter affrontare sicurezza il palcoscenico, allo stesso tempo anche hanno fortificato il mio carattere. Oggi i giovani che incontro per lavoro, quelli attratti dal mondo dello spettacolo, sono spesso ragazzi cresciuti con falsi miti e grandi illusioni. Penso che la generazione di oggi non riflette, non legge, non si informa, non approfondisce. Dovrebbero capire che nella vita bisogna essere curiosi, aprire la mente, essere affamati di conoscenza. E beh, è una vecchia storia il fatto che ci siano persone che ce la fanno, che arrivano, intanto perché hanno forse più talento degli altri, ma anche perché hanno quella che possiamo chiamare grinta, ma che si chiama studio, applicazione, un po' di cultura, perché se non leggi, per esempio, difficilmente scriverai una bella canzone. Se non leggi e se non sai qualcosa del mondo, probabilmente non sarai neanche mai troppo bravo a ballare, perché hai un patrimonio interiore troppo scadente. Insomma, la favola di Cledi continua e tra l'altro sta per diventare padre. Vediamo, chissà come si immagina lui come padre. È una domanda che ogni tanto mi faccio tra me e me, quando sono da sole, insomma. Come persona sono abbastanza autocritico con me stesso, severo con me stesso, perché so che la severità non illude ma dà dei risultati nel tempo. Questa sarà, ecco, un'altra esperienza che inizierà tra un paio di mesi e lì, chi lo sa, dedicherò parte del mio tempo alla mia bimba e alla mamma, ovviamente. Il resto veramente non lo so. Ci sono colpi d'ala che sono durati tanto perché sono stati battaglie, studio, applicazione, grinta, rivincita e riscatto. È il caso di questo ragazzo, ormai di questo uomo, Clady Cadio, una persona che ce l'ha fatta anche grazie soprattutto alla sua applicazione. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it o andate sulla nostra pagina su radio24.it o venite a cercarmi e a cercarci nei miei social. Insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.